vado in banca, non la mia, una volta al mese vado a ritirare in contanti l'assegno del mio stipendio in maniera da poterlo versare liquido, e quindi una volta al mese mi capita di andare in una banca che ormai conosco, e le osservazioni che mi capita di fare quel giorno sono in sequenza le seguenti. Primo, come ormai in molte banche bisogna depositare la borsa per non fare suonare gli allarmi di quella specie di bugigattolo gabbia dove bisogna passare. Come ormai molte volte mi sovviene di pensare, penso una volta di più che i depositi per le borse con chiave che uno ritira momentaneamente finché non riprende la borsa e rilascia la chiave non possono che averli progettati dei signori maschi, perché la mia borsa, che non è niente di particolare, è una borsa normale in cui infilo molte cose, regolarmente non ci entra, o per entrarci si graffia, si rovina, devo spingere, e comunque le parti, questi sportelli più grandi dove la mia borsa a malapena riesce ad entrare, sono comunque in basso, per cui io mi piego, il cappotto striscia per terra, si sporca, faccio dei movimenti goffi e impacciati. Comunque finalmente riesco ad entrare munita della sola carta d'identità, perché so che malgrado mi conoscono da 9 anni, mi vedono una volta al mese e me la chiederanno, non per altro, per controllare la mia età, io credo, almeno questa è la mia maliziosa, il mio malizioso sospetto. Comunque entro e mi accingo a fare la fila. Ora, codesta banca è, come alcune altre, arredata con un bancone non proprio circolare ma sinuoso, ovvero ha un'ansa convessa e una concava. Le 4 casse, di cui 2 sono aperte e 2 regolarmente chiuse, sono nel lato convesso, una a fianco all'altro dei box, con uno vetro. Mentre sono in fila, siccome mi sto annoiando e aspetto, osservo uno dei 2 sportelli chiuso. E mi accorgo che sopra il computer, il terminale del computer, credo si debba dire, c'è un personaggino di plastica, di quei gadget che si trovano nelle cartolerie o giocherie, nome peraltro terribilissimo, e mi metto ad osservarlo. Avendo ormai un figlio in età adolescente, ho perso il filo diretto con le ondate di moda di questi gadget. Questo personaggio non l'ho mai visto. Trattasi di un personaggino che all'apparenza è alto, non so, 4 dita, è in costume da bagno, ha un'aria scarmigliata, dei capelli biondi, irti e lunghi per aria, ed è appoggiato su un clamoroso skateboard a rotelle. Mentre sono in fila e guardo questo personaggio con indifferenza, man mano mi focalizzo sul personaggio e penso: ma in questo ambiente asettico, con tutti gli ingressi di sicurezza, gli allarmi, il deposito delle borse, gli schermi, guarda questo bancario stravagante, anche un po' vezzoso, che si è portato questo personaggino per personalizzare la sua cassa. Il personaggino in questione è dotato di uno slip rosa a pois gialli. Mentre faccio queste osservazioni, comincio a guardare se la mia fila avanza e mi accorgo che lo stesso personaggino di plastica, alto 4 dita, su uno skateboard, però con costumino diverso, in questo caso verde a fiorellini rosa, con gli occhiali da sole, ma gli stessi capelli dritti, ce l'ha anche il cassiere di fronte a me. Allarmata guardo anche le altre 2 casse, ebbene sì, anche nelle altre 2 casse ci sono gli stessi personaggini, nello stesso atteggiamento, skateboard con rotelle, cambia solo il colore del costume, degli occhiali da sole se ci sono, e dello skateboard. Mi prende una crisi di sconforto. Quel segnale, per quanto di cattivo gusto, della prima cassa, mi sembrava un segnale personale, individuale, di un impiegato di banca che forse nella sua grigia routine aveva voluto, come dire, portarsi qualcosa di suo, del suo bambino, della sua fidanzata, qualche stupidaggine che fosse comunque un segno di un io, di un individuo. E invece no. Tutte e quattro le casse hanno lo stesso logotipo di personalizzazione. Mi sorge un dubbio e quando arriverò poi davanti allo sportello del mio cassiere, il quale, come previsto, mi chiederà di fare la fotocopia del mio documento, ma è lo stesso cassiere che vedo circa 6 volte all'anno, turni permettendo, gli chiederò come mai hanno questo personaggino, faccio la finta ingenua, e lui, sorridendo un po' così malizioso e ammiccante, mi dice: per dare una nota di colore. Quindi in questa strabanca, di cui non voglio fare il nome, ma comunque ha a che fare col mondo cattolico, e sicuramente attraverso il mondo cattolico sono filtrati i suoi dipendenti, è comunque lecito permettersi delle scioccherie di questo genere, che non sono appunto un quadro, un vaso di fiori, eccetera, ma niente meno che una serie di personaggini probabilmente offerti da qualche collega, penso io, sempre più inaccidita e maligna, bene accolta dai quattro cassieri, che chissà come si sono divertiti a trovare come differenza il colore delle mutandine da slip dei quattro sportivi personaggi. Insomma, se prima avevo avuto come l'impressione che lo squallore fosse, non dico vivacizzato, ma interrotto da, anche se da una normale banalità, ma insomma da un segno di vivezza o di vitalità, a questo punto la sua serialità, ogni cassiere un personaggino in skateboard cambia colore dello slip, beh, lo sconforto è travolgente. Per fortuna non sono del tutto travolta, perché prima, mentre ero in fila, non sapendo più dove far vagare il mio sguardo dopo aver osservato il fenomeno dei quattro personaggi di plastica e averli visti così uguali, mi ero soffermata con lo sguardo sulla nuca della donna davanti a me in fila, che anche lei era in attesa davanti a un altro signore. E senza rendermi conto avevo osservato i suoi orecchini, che mi piacevano, orecchini di forgia antica, non troppo antica, quello che si chiama con un altro orrendo neologismo modernariato, ovvero anni, diciamo, fra i 30 e i 40, un color oro rosso, molto belli per il mio gusto. La signora davanti a me si era sentita osservata, evidentemente il mio guardo era stato troppo insistente senza che io volessi, si è girata e io le ho sorriso e le ho detto: lo sa che lei ha dei begli orecchini? All'improvviso lei si è sciolta in un sorriso, se li è tolti, mi ne ha messo uno nella mano e ha detto: è vero, piacciono anche a lei, anche a me piacciono molto, non sono veri, non sono d'oro, perché si sente che sono leggeri. E abbiamo cominciato una conversazione su quanto fossero carini e non costosi poi i suoi orecchini, e quanto poi a lei piacessero persino i miei, che erano d'argento. Ci siamo scambiate delle occhiate. Ebbene, non è certo nella prima, nella centesima, nella millesima volta che mi capita di osservare come le donne, anche in un luogo come una banca, e non particolarmente per merito mio o per la mia iniziativa, siano in grado di far cadere immediatamente la barriera dell'estraneità, di raggiungere un tono amichevole, scherzoso, confidente, di scambiarsi delle gentilezze. Addirittura il gesto di questa donna, si era tolto l'orecchino e me l'aveva posto in mano, era un'assoluta estranea. Ve lo immaginate, un uomo che dice a un altro uomo: ma che bella cravatta lei, e l'altro gli dice: la tocchi, e gli setta, me la regala, non so, la mia fidanzata, è vero, anche a me piace molto. La cosa poi era finita in... lei mi è simpatica, perché non ci beviamo un caffè quando usciamo. E insomma, anche questo mi aveva permesso di farmi sentire più a mio agio in quel posto così già non gradevole, perché le banche difficilmente lo sono, e poi con quell'orribile personaggini in serie, ecco, non ero, il mio gusto estetico, il mio gusto sociologico non erano soddisfatti. Ma quella signora ignota di cui non conoscevo neanche il nome, non ci siamo neanche presentati, con cui avevo scambiato opinioni sugli orecchini e dopo ho bevuto un sano caffè, ha aperto degli altri spazi. Thank you.